Guarda, io te lo giro. Ma c'è Lorenz, vuoi? Sì, ma è una cosa giusta. Se non fa meno non è. No, no, se no continua a girare lì. Trasmissione radio che facciamo ieri, quello che stavo facendo era quella. Anch'io ho questa, infatti quando vengo aspetto normativi, omologazioni e varianti. Quali sono i problemi? Per il gioco il resto è la cosa mi fa molto, perché c'è sempre da imparare, fanno un po' tutto. Vieni qua, laboratorio che abbiamo organizzato ieri di presentazione, che racconteremo. non si sa fare, di annotarvi il tutto e di tenermi per dopo, in maniera tale che abbiamo previsto un momento successivo alla presentazione in cui dar spazio ovviamente a anche ascoltare ciò che avete da dirci e da chiederci voi. E prima di iniziare volevo fare un po' i ringraziamenti del caso. E il primo ringraziamento va all'amministrazione uscente, in particolare a Renato, alle amministrazioni locali che abbiamo invitato e che non hanno potuto esserci, però l'idea era anche proprio quella di fare un primo gesto per creare una collaborazione anche di valle, non solo. E il ringraziamento all'altra lista che è rappresentata qui, perché indipendentemente da come andrà ci troveremo allo stesso tavolo, e quindi la collaborazione e la condivisione anche di idee, di opinioni è assolutamente dovuta, e dal nostro punto di vista anche un piacere avere anche questo qui. E volevo fare anche un ringraziamento a questo luogo, perché nonostante appunto le varie complessità del caso, René e questo luogo, in particolare il ristorante di René, è stato il primo luogo, e René è stata la prima persona ad alto che io ho conosciuto, oltre ad altro. Da me poi vado già da un anno, ero venuta a vedere la sua casa da alto, mi aveva promesso di avere una vista mare che io non ho ancora visto, ma perché. Però non beveva il caffè, mi ha detto se vuoi andiamo a berlo nel bar, al ristorante che c'è qua ad alto, e mi porta qui, e la prima persona che incontro di alto era René. Quindi insomma in questo momento è ancora più per me significativo ed emozionante essere qui a presentare, anche nel vedere che cosa è successo in questi 7 anni, anzi 8, perché era l'anno prima che mi trasferissi, cosa è accaduto nel frattempo nella mia vita, questo luogo, in maniera allargata alle persone che ho conosciuto. Benvenuti e benvenuti nel frattempo. Grazie. Figurati. E un grazie speciale a questo gruppo, a queste meravigliose persone che sono qui con me oggi. E avevo già il privilegio e il piacere di conoscerli, alcuni un po' di più, altri di meno. Però queste settimane di progettazione insieme devo dire che ho conosciuto aspetti di loro che non conoscevo, ed è stato emozionante anche, indipendentemente da come andrà, è stato un percorso per me significativo, proprio anche per aver approfondito le conoscenze, per essere qui oggi, anche essere riusciti ad arrivare qui oggi e aver creato questo percorso proprio che ci ha portato a condividere così tanto tutte queste idee che vorremmo mettere in comune e la volontà di trasformare anche questi sogni in azioni concrete. E abbiamo deciso di organizzare questo incontro qualche settimana fa per presentarvi le nostre idee. Principalmente per 2 motivi. Il primo, ci siamo detti, venire a fare comunicazione su carta, sui social, manifesti, eccetera, eccetera, però quanto è importante poi guardarsi negli occhi e raccontare anche quello che ci sta dietro a tutte queste cose e le motivazioni che spingono. Quindi grazie per essere venuti a sentirci. E la seconda motivazione, secondo me, non secondaria di importanza, è il motivo per cui l'abbiamo fatto, e io la chiamo sana follia, nel senso che vediamo un po' tutti, vedo anche un po' come forma mentis come cittadini italiani, la parte delle istituzioni come qualcosa sempre un po' più di lontano, qualcosa di irraggiungibile, qualcosa che è talmente quadrato da essere quasi imperscrutabile e impenetrabile. E questa percezione ce l'avevo anch'io, ce l'ho sempre avuta, ho vissuto in ambienti, sicuramente città molto più grandi, e vedevo il tutto in maniera molto distaccata, come se da una parte si potessero fare delle cose, ma mai arrivare a farle in maniera pubblica, quindi il pubblico suddiviso dal privato, e queste due cose non convergevano mai. Vivendo qui, già il fatto di incontrare il sindaco per il paese, i consiglieri, la giunta per il paese, è una cosa surreale, e ancora di più bussare alla porta e poterci parlare di persona. credo che questa sana follia che ci ha spinto a trovarci, ad essere qui oggi, a presentarci e anche solo aver messo nero su bianco le nostre idee e raccontarle qui questa sera, sia mossa da passione, amore per questo luogo, amore per noi stessi, perché vogliamo migliorare anche noi stessi e il luogo in cui viviamo, ma quella sana follia che spinge le persone ad immaginare qualcosa che vada al di là del proprio ordinario. Quindi ho una mia vita, una mia quotidianità, ma nonostante questo sogno, qualcosa che riesca ad andare oltre, riesca a smuovere anche quella comfort zone, quella quotidianità che tutti viviamo in maniera naturale, e provare a spingerci un po' oltre anche mettendoci in un qualche modo allo scoperto, perché in questo momento nell'essere qua a raccontarvi tutto questo, raccontarvi di noi, vi racconteremo anche cose magari un po' più personali, che non tutti siamo abituati, anzi direi nessuno, quindi ad esporci così tanto, sia mosso da questa passione, da questa voglia di provare ad andare oltre e sperimentarci in un nuovo ruolo, in una nuova veste, mettendoci oltre la faccia anche emozioni, capacità, competenze, sicurezze e insicurezze che abbiamo tutti noi. E abbiamo provato nel metterci intorno a un tavolo e raccontarci quello che volevamo fare, a iniziare a capire dal nostro punto di vista quali erano le problematiche di questo luogo, i punti di miglioramento di questo luogo e che cosa ci mancava partendo principalmente da noi. E ci siamo resi conto di una dinamica che credo che sia insita in ogni essere umano, e qua in Liguria mi hanno anche dato una definizione ben precisa che è il mugugno ligure, in cui viene molto facile raccontare ciò che non va. E lo facciamo attraverso le relazioni umane, nel vedere e incontrare una persona, lo vediamo nel vivere un luogo in cui la nostra mente va spesso a identificare una situazione, un qualcosa che non ci piace. E credo che sia assolutamente naturale questo. E abbiamo provato a fare un passo aggiuntivo a questo, perché abbiamo capito che nel cadere in tutto ciò che non andava si rimaneva quelli incastrati. E nel fare questo esercizio, nel provare a dire ok, c'è questo problema, quali possono essere le soluzioni? Nel guardare dopo questo processo ho visto che le problematiche possono essere oggettive e sono aggiungibili, nel senso che noi ne abbiamo identificate alcune e voi ci aiuterete ad identificarne anche altre da sommare a queste. Le soluzioni sono molto personali perché derivano dal vissuto di ognuno, dalle competenze di ognuno, dalle culture di ognuno, perché ognuno di noi arriva anche da percorsi formativi, da luoghi anche diversi, e credo proprio per questo che la voglia che abbiamo di allargare questo tavolo che per ora abbiamo creato tra di noi, perché dovevamo metterci insieme per proporvi qualcosa di concreto, sarebbe fantastico farlo insieme davvero, nel senso che oltre alle problematiche trovare delle soluzioni insieme potrebbe essere una soluzione collettiva, e a proposito di amministrazioni viste in maniera distaccata potremmo far sì che questo progetto, questo modo di vedere e vivere alto possa essere davvero allargato e parte di ognuno di noi. E nel dirvi questo, vi aggiungo questo, che in questi anni, e soprattutto devo dire in queste ultime settimane, una delle cose che mi viene detta sempre più spesso quando parlo con le persone è che sono una foresta. Sto termine, ragazzi, lo dico, nel senso che sono un bosco, mi sta sempre un po' più stretto. Però per raccontarvi, a proposito di parte personale, anche un po' di me, io arrivo da una famiglia in cui mia mamma era di origine calabrese. Il papà è friulano, io sono nata e cresciuta a Bielle, in Piemonte, e per lavoro negli anni successivi mi sono spostata a vivere in Lombardia, prima a Milano, poi a Pavia. Non ci ho mai capito niente e soprattutto non mi sono mai riconosciuta in nessuno di questi luoghi, perché dialetti, modi di vivere, era tutto molto diverso, e quando si dice dove hai le radici, io non avrei saputo identificare nessun luogo, non tanto per il luogo in sé, perché non avevo idea di che cosa volesse dire per me avere delle radici. Quando sono venuta qua ad Alto, e questo luogo univa tante delle cose che mi piacevano. E sono arrivata qui e me ne sono innamorata, ho iniziato a definire dal secondo giorno che ci vivevo questo luogo come casa. Quindi credo che almeno dal mio punto di vista la definizione di casa come paese, città, regione non dovrebbe tanto appartenere alla famiglia, all'albero genealogico. Viene in questo fondamentale, mi ricordo le assunzioni in bancasella le facevano e andavano a ripercorrere i nonni, i prozii, i pronipoti per vedere che nessuno di loro arrivasse al luogo fuori da Biella. Quindi capisco che c'è una parte anche di noi che cerca in qualche modo di delimitare da dove vieni, perché vieni da lì. Ma io mi sento di questo luogo per il cuore, forse la mia testa, le mie origini, i miei genitori non sono di qua, ma voglio vivere qua. Credo che questo debba valere più di dove sono nato o di dove sono cresciuta. E qui ho deciso di crescere mia figlia, di creare una famiglia, di ristrutturare casa, di creare anche un'associazione, perché anni fa, mostro un po' anche dall'intento di voler fare tante cose, abbiamo creato insieme a degli amici questa associazione che si chiama Altopia, con cui organizziamo sia attività per i bambini, corsi formativi, poi è arrivato il Covid, insomma ci siamo un po' bloccati anche noi come tante piccole realtà. E questo un po' per raccontarvi insomma questa parte di me delle origini. E in aggiunta a questo volevo raccontarvi anche una parte un po' più professionale, perché mi propongo per un ruolo molto professionale quale sindaca, e arrivo da un trascorso, da un vissuto diciamo lavorativo di aziende. Ho sempre lavorato come dipendente in aziende, e variando, mosso da una ricerca di inquietudini, quindi un po' insomma cercavo altro, però ho lavorato sia in piccole aziende, microscopiche direi, sia in multinazionali. Il mio primo lavoro è stato in una multinazionale di origine di Chicago a Milano come consulente per Unicredit, e da lì il mio trascorso lavorativo ha continuato in diversi ambiti, anche perché dalla parte di consulenza sono passata poi al settore delle energie rinnovabili, dove lavoravo per 4 anni. E quando ho conosciuto Daniel, lavoravo in una fondazione di arte contemporanea a Biella, dove ero ritornata da Pistoletto come assistente alla direzione generale della fondazione, e lì si occupavano di architettura sostenibile, moda sostenibile. Quindi la mia curiosità aveva la possibilità anche di spaziare attraverso diverse tematiche, diversi modi anche di approcciarsi al lavoro, perché fino ad allora non l'avevo visto. Quando ho conosciuto Italia che cambia, ho pensato: fantastico, ci sono un sacco di persone in giro per l'Italia che uniscono le passioni che io avevo e che svolgevo come volontaria in associazioni, in realtà, unendole al lavoro. Questa cosa mi ha smosso, mi sono innamorata del progetto, poi mi sono un po' fatta prendere la mano, mi sono innamorata di lui, è stato poi un susseguirsi di cose. Però attraverso il progetto di Italia che cambia, che è un progetto giornalistico, ho unito diciamo una parte gestionale, portando le mie competenze che avevo avuto negli anni trascorsi nelle varie aziende, e quindi valutazione amministrativa, strategiche, competenze di economia, di ragioneria che avevo avuto, con una parte più di narrazione, di scrittura, potendo vedere progetti virtuosi, quindi in giro per la Liguria, per il Piemonte, per l'Italia, ma nello specifico in questi anni mi sono dedicata ai progetti del Savonese e dell'Interviese in ambiti dei più ampi possibili, quindi nuovi modi di fare educazione, scuole, realtà imprenditoriali, progetti legati all'immigrazione, all'arte, quindi anche a quella rappresentanza. Quindi ho studiato e approfondito diverse tematiche. E a un certo punto nella vita, credo capiti più o meno periodicamente, uno si ritrova e si guarda e dice: che cosa ho fatto in tutti questi anni e cosa mi servono tutte queste cose? E mi sono detta: proviamo a metterle a disposizione, proviamo a unire tutto questo fardello di un po' anche di tante cose molto diverse e provare a metterle a disposizione con una parte parte molto professionalizzante, amministrativa, burocratica, gestionale, eccetera, eccetera, ma con una parte anche creativa, nel senso che vedendo anche tutti questi progetti, di queste realtà differenti che ho potuto visitare, incontrare, sorgono tante idee, perché poi ritorni a casa e dici bellissimo, lo potremmo fare anche qua ad Alto, e quindi questo lo potremmo fare qua ad Alto dopo 3 anni che continuo a ripeterlo e avete capito che servono anche un gruppo con cui crearlo, ho pensato proviamoci, proviamo a mettere nero su bianco queste idee che si sono sommate momenti brillanti di questi altri partecipanti a questo gruppo e vorremmo presentarvele, vorremmo raccontarle. Prima di passare alla parte del racconto, volevo chiedere anche agli altri di potersi presentare, magari di più sere e poi... Dicevo che sì, io sono molto più stringata di te, perché alla fine un po' mi conoscono tutti quelli. Quindi io sono Serena, ho 36 anni, ho iniziato a venire qui come turista d'estate, e comunque mi piaceva stare qui, tant'è che alla fine mi sono proprio trasferita con la mia famiglia e insomma hanno cercato di coinvolgermi quasi da subito nelle attività del paese, quali la Proloco, e infatti adesso ne sono segretaria e che dire, mi hanno chiesto queste persone, che qualcuno lo conoscevo, qualcuno no, di fare questa pazzia di, che non avrei mai pensato, di mettermi in vista e niente, raccontando un po' attraverso le nostre idee, tutto quanto, ci siamo raccontati parecchie cose e comunque il programma e le idee erano condivise perché comunque ne ero davvero d'accordo con loro e ho deciso di provarci. E, non lo so. E geometra, sì, ha lavorato no, parecchi anni, quasi 10 anni in un studio tecnico, e poi questa idea è stata accantonata e ho fatto il resto e ne sono felice. E che dire, no? Basta, non so più cosa dire. Grazie. Allora, io sono Stefania, ho 18 anni e vivo qua da sempre perché mia madre si è innamorata di quel bel uomo di mio padre e ha deciso di trasferirsi qua e quindi io sono praticamente sempre nata qua e tra l'altro con persone che comunque vedo oggi, cioè io qua ci sono nata vedendo tutte queste persone e mi fa piacere che siete tutti qua e ho deciso di unirmi a questa lista perché non lo so, un po' per esperienza scolastica che comunque sempre è un'esperienza e poi anche perché comunque, cioè, perché no, ecco, cioè, mi sono detta perché no. E quindi eccoci qua, ecco, adesso sto facendo l'ultimo anno delle superiori, sperando di uscire, però comunque nella vita vorrò fare poi l'archeologa, vorrò iscrivermi all'università di archeologia e sperare comunque non di rimanere qua per sempre perché diciamo che poi la vita ti porta dappertutto, ecco, però diciamo sempre mantenendo delle radici che sono di qua, perché mio padre una parte di lui era di qua, ecco, quindi diciamo mantenendo sempre la parte di Alto, ecco. Il barco che ti porta al cuore. Grazie. E basta, niente, a posto. Prego. Allora, io sono Chiara, sono l'ultima arrivata, abito ad Alto da settembre e in zona da un anno e dopo una quindicina di anni in giro prima per l'Italia poi per l'Europa ho scelto di vivere qui e di anche fermarmi qui e l'ho fatto perché mi sono innamorata del posto. Vedo in questo posto un sacco di cose che anche come dicevamo noi che ho cercato per un po' di tempo, ho scelto di rimanere qua non solo per far crescere bene i bambini ma anche per me stessa. E, di formazione, sono stata occupata di psicologia e di programmazione psicopedagogica, ho iniziato dal carcere, come psicologa, e adesso coordino, gestisco due linee di riviera. Tra una cosa e l'altra mi sono specializzata in psicotraumatologia e in psicologia infantile della famiglia e conferenza sistemica. Ho deciso di entrare in lista perché in questo posto non ho visto solo il bello, ma ho visto anche un sacco di potenzialità. Quindi ci sono sono un sacco di cose che si potrebbero fare, che si potrebbero portare, che si potrebbero anche pensare insieme. E siccome sono una che non sta con le mani in mano ad aspettare che succedano le cose, ho deciso di essere parte attiva del, non del cambiamento, ma proprio di questo processo di sviluppo. Quindi di essere parte attiva con questo gruppo di persone che alcuni li ho conosciuti da poco, gli altri li conoscevo già, ma stimo tutti tantissimo, e poi proprio anche con la comunità, come abbiamo detto, allargando il cerchio, come abbiamo fatto questa sera. Grazie. Io ci sono Roberto, non sono come abitante diretto qua nel comune di Alto, ma per chi mi conosce sono da sempre che vivo e sono anche cresciuto qua in Vallata, sono giù di Castelbianco. Ho deciso di partecipare a questa iniziativa dei ragazzi perché sono stato spinto in modo particolare da una profonda amicizia con Manuele e con Daniel. Abbiamo già partecipato all'associazione che dicevo prima che abbiamo creato e ho sempre sentito che sono portatori di idee interessanti anche per la nostra Vallata. Io in particolare, non venendo direttamente sul posto ma venendo dalla Vallata, mi propongo proprio come quell'elemento di unione sulle iniziative, pensandole proprio come un'identità di Vallata, perché abbiamo sempre ragionato che poi abbiamo delle buone idee, in certi momenti servirà fare un fronte comune per beneficiare di quello che può arrivare nella nostra Vallata. Nello specifico, come formazione io ho una laurea in legge, ho diverse esperienze lavorative, ho una natura commerciale e quindi molti di voi magari mi conoscono per quello che sto facendo e che mi sposto sul territorio. Quindi il mio, diciamo, apporto è quello proprio di fare da tramite. Io sono Carlani, ho 45 anni, ho le foto di mia mamma con la pancia nel terrazzo della casa in cui oggi vivo, sono cresciuto a Roma, mezzo siciliano, mezzo ligure, ma il luogo che io ho più amato nella mia vita è sempre stato Alto, non so neanche spiegare perché ho fatto tutte, ma dico tutte le mie estati qua, non solo da bambino che mi compare i miei nonni, ma anche da adolescente, no? 16 anni, 18 anni, 20 anni, tu pensi, andavo anche in giro per il mondo, ma non poteva mancare il posto di Alto. Io ero felice qua. Se ricordo i miei ricordi di bambino, nonostante avessi e abbia dei genitori meravigliosi, i miei ricordi felici sono ad Alto. Cioè, non era per me Roma, non era per me Milano, l'ho vissuto, ho girato tutta Italia letteralmente più volte per lavoro. Io per lavoro faccio giornalista, giro tantissimo, ma questo posto qua, per qualche folle motivo, è sempre stato proprio il mio. Tanto che circa 10 anni fa, dopo aver girato tanto l'Italia, ho detto finalmente mi fermo, e dove potevo fermarmi se non qui? Quindi nella casa dei miei nonni, che i miei nonni e i miei zii, Giorgio, Cuneo, qualcuno di questo ricorderà, spero, Maria Miazza, Dalozzi, Luciano, eccetera. Io da bambino questa cariola gli aiutavo a fare, no, i muretti, eccetera. Quindi poi sono venuto a vivere qui, il primo anno da solo, senza riscaldamento, perché è una casa estiva. Mario mi ha aiutato a installare la prima stufa. E poi via via abbiamo costruito l'altro caso, è arrivata Emanuele, è arrivata il cane, il figlio, poi il nostro figlio Vincenzo. E nonostante venissi qua da sempre, avevo vissuto molto fuori dal paese, cioè io vedo molto quello che oggi ho scoperto chiamarsi un charme, perché stavo lì, ma non perché ovviamente volessi non partecipare, ero lì dai miei nonni, non so come dire, io venivo, stavo in questo luogo, non, fino a che non ci sono trasferito non conoscevo bene la bellezza di questa parte, no? Del paese, della gente pulsante. Conoscevo bene più appunto il luogo. Via via che sono arrivato qua, mi ci sono trasferito, io arrivavo da Roma, io a Roma non sapevo il nome di un mio vicino, oggi la mia vicina Liliana è una delle mie più care amiche, no? Quindi sono passato da un luogo dove dici sei pieno di gente, milioni di persone, non conoscevo nessuno, a un luogo dove ci sono 150 persone, ma dove so che se ho bisogno qualcuno mi aiuta. E questo, io sinceramente, cioè spesso sento parlare male di piccoli paesi, ma no, sì, si parla tanto, è vero, si parla tanto. Tutti noi parliamo, è inutile essere qua, perché uno parla di chi conosce, nel piccolo paese conosci gli altri, quindi parli di questo e di quello. Però io quando ho avuto bisogno, qua, io quando avevo bisogno a Roma o Milano, nessuno mi aiutava, non perché erano cattivi, non c'è questo tipo di relazione. Qua, ogni volta che ho avuto qualsiasi tipo di bisogno, ho trovato una proprietà accogliente, magari non particolarmente espansiva, no? Magari guardavo il boh, chissà questo qua che fa, no? Però, però nel bisogno c'è, questo mi ha fatto sentire che non era solo un posto bellico, ma un proprio, come dicevo, per il suo essere, ma era un posto dove c'era un'umanità in cui, di cui mi faceva piacere fare parte, dove voglio crescere mia figlia, no? Che non è una cosa scontata, no? Dici, perché devi crescere tua figlia in un paesino anziché in una città che ti offre le scuole, l'università, il lavoro, no? Dice, non sei nato lì perché, perché penso che qui, cioè io da bambino non potevo stare fuori come stai qua adesso. Io stavo in una città e non vedevo nessuno. Qua mia figlia viene nella piazza e c'è tutta la comunità che la guarda, no? Quindi questo è il mio posto. Manuela ha usato più volte la parola amore, ma me l'ha fregato, perché parlo anch'io amore per Emanuela in primis, quindi, ma per questo posto. Quindi mi unisco anche un po' alla gratitudine immensa che io ho un po' per tutti voi, nel senso che chi l'ha amministrato, perché mi ricordo, essendoci venuto da sempre, ho vissuto la fase in cui c'erano 4-5 ristoranti da straniero, però mi ricordo Adelina, no? Mi ricordo Piccinini con l'albergo, mi ricordo, cioè poi ho visto via via lo spopolamento, Federico il negozio, poi c'era quello di sotto, cioè mi ricordo, no? Anche se ero un bambino, sentivo. Poi l'ho visto via via chiudersi, cioè c'era sempre meno, negli anni l'ho visto rinascere, questo per me è stato bellissimo. Quando sono arrivato io e mi sono trasferito qua nel 2015, ero tipo il 120esimo residente, adesso vado a memoria, non so. E adesso, quando è l'ultimo con cui ho parlato che si era trasferita, tipo il 150esimo dei numeri, li sto dicendo un po' a caso. Però in un piccolo paese così, vedere un racconto, è chiaro che è l'ultima, vedere una controtendenza così è qualcosa che ti sconvolge, no? In un periodo di abbandono dei paesi, eccetera. Quindi, gratitudine anche appunto per le persone che rappresentano qui, con Primis Mauro e tutta l'altra lista, perché fino a 2-3 mesi fa si parlava di commissariamento qua, no? Eravamo tutti un po' nel panico che trovarci senza amministrazione, io chiedevo in giro proprio da cittadino. Poi dopo diceva ti sei candidato, ma io non c'era per niente quell'idea, chiedevo in giro e tutti dicevano no, poi cioè, cavolo, rimaniamo senza sindaco, no? E questa cosa mi mette una grandianza. Alla fine sbuffa la vita, c'è cioè, andare addirittura da quelle liste, ma una cosa che proprio. Mi rispecchio totalmente a quello che ha detto Emanuela, che per me non c'è nessun tipo di logica di maggioranza, opposizione, contrasto, anche qua non è che ci siamo destra, sinistra, centro, cioè qua siamo, no? Siamo qua per lavorare per il bene di questo paese, quindi chiunque vinca saremo tutti insieme, chiunque vinca saremo praticamente tutti segni volontari, se non volontari totali, quindi è proprio l'amore che ti spinge a fare questo. E soprattutto chiunque vinca siamo tutti vicini, cioè uno va al bar e dice cioè, questi sono i miei, quegli altri sono no, cioè siamo un'unica comunità, questo è il senso, l'abbiamo chiamata insieme per questo, cioè noi vogliamo essere insieme, poi ci può essere quello che sta più simpatico, quello che sta meno simpatico, con quello c'è un'idea più simile, con quell'altro no, ma siamo qua per questo paese, per i nostri bambini, per i nostri nonni, per tutti quelli che vivono qua, quindi questo è un po' il senso. Quindi di mestiere faccio giornalista, sono laureato in giornalismo, ho girato, come dicevo, tanto l'Italia, ho il privilegio di cercare il mio lavoro, secondo me quasi nessuno ha mai capito che faccio il giornalista, ma che fare? Il mio lavoro, voglio dire una parola, è andare in giro a cercare persone che realizzano progetti che funzionano, no? Quindi ho intervistato imprenditori, associazioni, sindaci in tutta Italia che fanno cose belle. E mi è venuta una voglia matta, dopo 20 anni in giro a cercare questa roba qua, di metterla in pratica. Ho detto, è bello raccontarlo, è più bello viverle. Quindi ho detto, pensa che meraviglia se Alto diventa il luogo in cui si prende un po' il meglio di quello che si è visto in giro per l'Italia. Già partiamo bene, perché partiamo, se no perché ci dovrei vivere? Già partiamo bene, perché secondo me si sta da Dio. Ma pensa se ancora di più riusciamo in un periodo di siccità, crisi energetica, le bollette che crescono, tutta la situazione di guerra, il Covid, eccetera, a creare un avamposto dove tutti vogliono crescere, cioè non che vogliamo portare tutti qua, ma nel senso proprio un modello, qualcosa dove dici wow, questo è un po' il mio sogno. Grazie. Dopo questa presentazione sintesi. Cioè, noi possiamo andare. Cioè, dopo di te. Dopo di te è l'uomo. Beh, io sono Marina, molti mi conoscono perché ho gestito per 8 anni il rifugio Pian dell'Arma di Capraluna. Quindi dice che cosa c'entra questa ad Alto? Io non vivo ad Alto, diciamo che continuo a frequentare dopo dal 2019, sono andata via dal rifugio Pian dell'Arma nel novembre 2019, continuo a frequentare la Valle del Navaire. Perché? Perché è una valle bellissima che ha tantissime potenzialità turistiche. Sto parlando di valle, e che Alto fa parte di questa valle, e quindi sinergicamente tutti insieme abbiamo tantissime potenzialità turistiche. Perché essere qua io oggi? Io oggi, insieme a loro, che conosco da tantissimo tempo, non tutti, ma Daniel, Emanuela, Serena, Silvio, conosco da tanto tempo, abbiamo deciso di affrontare questa nuova avventura. Io ho studiato alla scuola di turismo ambientale, sono guida escursionistica naturalistica e sono guida parco, di due parchi. Sono guida del Parco Alpi Liguri e guida dell'area protetta delle Alpi Marittime, che è il parco dell'Alta Valtana Repesio insieme al Parco delle Alpi Marittime, che adesso in Regione Piemonte è stato accorpato e si è diventato un parco unico. Io sono guida parco e quindi mi occupo da sempre di turismo, di natura, di voglia di stare in natura e di qualificare questi luoghi bellissimi come turismo naturalistico. Ci siamo sentite per un... Manuela mi ha chiamato un po' di tempo fa proprio per un articolo che doveva scrivere sulla natura della Valle del Navaire e sulle caratteristiche, le peculiarità, che cosa c'è che non c'è da altre parti o che cosa si potrebbe amplificare, che cosa si potrebbe raccontare. E chiacchierando, alla fine lei mi ha detto: lo sai che abbiamo pensato di presentarci, abbiamo un sacco di idee ad Alto, eccetera. Tu che continui a frequentare la valle, tu che porti sempre gruppi nella valle a conoscere, eccetera, ti piacerebbe fare un po' la nostra pedina, la nostra, tra virgolette, esperta del turismo ambientale? E io ho detto certo che mi piacerebbe, perché la Valle del Navaire ha un sacco di potenzialità. Abbiamo aperto lo sfumato per festeggiare. E quindi ho iniziato questa avventura con loro, abbiamo lavorato parecchio sia insieme attorno al tavolo sia online per parlarci, per discutere, per mettere giù dei progetti che dopo vi racconteremo. Quindi la mia nicchia è il turismo, turismo ambientale, turismo esperienziale. Lascio la parola ad Alessandro. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro e non mi piace parlare. Partiamo da questo. Comunque ho 41 anni, di formazione agrotecnico, ho lavorato per 10 anni, infatti sono stato militare carabiniere per quasi 9 anni, poi ho deciso di cambiare vita. Ho gestito un hotel Liguria per 4 anni, l'Hotel Sulemana, non so se qualcuno ha presente. Ho cambiato molti lavori nella mia e forse non ho ancora trovato anche il mio lavoro definitivo. Ho conosciuto Alto quando ero piccolo, che le luci ce l'hanno con me. Ho conosciuto Alto quando ero piccolo, molto piccolo, più piccolo di mia figlia, avevo 5 anni. E posso dire che per i ricordi che posso avere da bambino, me lo ricordavo con un posto con molta gente, con cui mi divertivo tantissimo. Stavo meglio qua che a casa mia, che a Bastia, poco distante da qua. E chiedevo sempre di venire qua d'estate, perché giustamente l'inverno era andava a scuola. E ho deciso di tornare a vivere qua, dopo aver portato la mia famiglia a conoscere questo posto, e dopo aver vissuto per qualche anno all'estero in una città con 1,5 milioni di abitanti. E dopo quell'esperienza ho prediletto una vita più tranquilla, un posto più tranquillo, sia per tutto quello che diceva già Daniel, per i rapporti personali con le persone, che in caso di bisogno, anch'io ho avuto molto bisogno soprattutto alla mia famiglia. Ho bisogno e ho trovato aiuto anche da persone che non avrei mai pensato che ci avrebbero aiutato, cioè, mi avrebbero aiutato. Io non c'ero, era un periodo già un po' assente, però persone, non dico insospettabili, non perché fossero cattive persone, ma persone con cui non avevo avuto mai un rapporto, e tanto meno mia moglie, che era arrivata molto meno di me in questa comunità, calcolando che molti mi conoscevano già da bambino e tutto. Però quando sono tornato a casa ho scoperto con molto piacere che mi preoccupavo inutilmente che la mia famiglia era da sola, perché noi siamo qua da soli. Ho scelto di vivere qua, ma non ho famiglia qua. Perciò, in più, ho visto che questo paese, l'ho visto, oltre a migliorare negli anni, tutti gli interventi che sono stati fatti nei vari periodi, ho visto una voglia della gente di venire, sempre di più, soprattutto d'estate. E ho deciso, oltre a stabilirmi qua, di provare a aprire attualmente è un'attività, sto ristrutturando una casa con l'intenzione di fare un bed and breakfast o comunque una struttura ricettiva. E come ben sapete è un investimento abbastanza consistente, ho buttato tutti i risparmi di una vita in questa cosa, perché ci credo. Da quando sono qua ho scoperto che mi piace il volontariato. Sono diventato membro della Croce Bianca e attualmente sono anche presidente della Provo e anche membro di Altopia. E ho scoperto che mi piace fare, aiutare gli altri, scoperto, lo sapevo già, però ho scoperto, ho capito che oltre ad essere un piacere, oltre a farmi un piacere, come quasi una, sembra, come si dice, futile però dirlo così, è quasi una vocazione. Anche a volte mia moglie me lo rifaccia, che sono sempre pronto per gli altri ma mai per noi. E in un caso sarà una cosa negativa in casa, ma magari è quello che può servire anche. Per altre cose non posso dire di avere pregresse esperienze amministrative, una mini media, ma c'è tutto il desiderio di imparare e di provare a fare il bene comune. Anche perché se di solito, almeno posso dirlo nel mio caso, se una cosa è un bene per me molte volte è perché poi sarà un bene per gli altri. Non so se mi sono spiegato bene, se è una cosa buona molte volte è perché la reputano anche gli altri che è buona. È lo stesso pensiero che credo che possano avere anche altri. E poi dopo tutta questa confusione vi passo. Allora, se la tutti quanti. Mi chiamo Silvio, no, per lo sport, sì, purtroppo. Ci siamo sbagliati. Ci siamo sbagliati. Io ho preso quella ricca. Ho preso quella ricca, dice. Ho 45 anni. Vivo qua dall'alto da circa 20-21 anni. Prima sono arrivato a Torino, 11 mesi, 9 mesi a Erli. Per i motivi di lavoro sono finito a Torino. Abbiamo preso una parte per il comune di Alto, poi alla fine. Ho detto avevo 23 anni, è proprio la ragazzina quando sono arrivato, adesso ne ho 45, potete immaginare che sono quasi cresciuto, anzi adottato proprio dal paese, diciamo, direttamente così, ma l'ho proprio adottato. E sono finito lì per i motivi del lavoro, ho detto tanto finché finiamo il lavoro per il comune di Alto, mi prendo una casa in affitto senza andare avanti dietro, da ieri non avevo neanche la patente, prendo una casa in affitto per parecchi mesi e poi mi trasferisco. E invece alla fine non è stato così. Le mie radici hanno iniziato a crescere, hanno cominciato ad andare in profondità che non riesco a capire anche dove vanno e cominciano ancora ad andare più profondo. Quindi hai fatto una casa. L'abbiamo vista. 2004. Sono disponibile per tutti quelli che mi cercano, tutti quando hanno bisogno, do sempre una mano. Se voi vi volete, io vi voglio, quanti ci mi amate, io vi amo. Se avete bisogno delle mie forze, sono sempre disponibile per tutti quanti. Grazie. Sì, certo. No, ce l'abbiamo già tutti. Ce l'abbiamo già tutti. Sì, che fa parte dell'arredamento. No, ma sono una volta, sono il filo del paese di Alpe. Capito, il programma di... Parliamo del programma. Ma senza, ci raccontiamo in tre per il... Lo puoi dire anche da voi. Sì. Racconteremo velocemente il programma e ne abbiamo lasciate due copie se avete voglia poi di approfondire. E avevo promesso prima di raccontarvi anche che cosa è avvenuto ieri, prima di raccontarvi del programma. E come vi abbiamo detto, noi abbiamo messo queste idee, ora vi spiegheremo un po' in sintesi che cosa sono, quali sono le tematiche che anche stanno più a cuore, che vorremmo portare qua. Ci siamo domandati se erano le stesse sentite anche da altri. E quindi ieri abbiamo fatto un primo esperimento che è stato un laboratorio di coprogettazione del paese. E la nostra fantastica artista Chiara ha creato queste due cartine che vetrine lì nelle vetrine di René. E quella più grande e meno colorata, diciamo, era per gli adulti, e quella che è stata poi colorata giustamente dai bambini per renderla più vivace e allegra, era per i più piccoli. E abbiamo identificato dei luoghi nel paese che fossero simbolici, e ogni luogo rappresentava una tematica che avevamo identificato noi per il nostro programma, più uno spazio per chi ne voleva aggiungere. E abbiamo invitato le persone che hanno partecipato, alcuni passando, alcuni non si sono presentati ma hanno mandato i foglietti da attaccare perché non erano potuti venire. E abbiamo lasciato a disposizione dei post-it, dei fogliettini appiccicabili, e ognuno aveva la possibilità di provare a sognare e a condividere con noi allargato, quindi con chi era presente lì, le proprie idee, i propri desideri per il paese, le proprie esigenze che voleva, si aspettava che venissero in qualche modo accolte, ascoltate. E la stessa cosa è stata fatta per i piccini, che hanno ovviamente, noi ci limitiamo che nell'immaginario loro sono andati avanti sognando un treno che arrivava da Alpi, la girata, la piscina, insomma, sono la fantasia è sicuramente più sviluppata. Ok. E ci siamo tenuti queste cose, è stato un lavoro comunque interessante, e magari dopo le condividiamo questi progetti che sono emersi, queste idee, e così se avete voglia di leggerle potrebbe essere comunque interessante e stimolante per tutti. E vi racconto in super sintesi le tematiche principali e darò la parola poi a chi vuole approfondire le tematiche che abbiamo identificato. E parto dal presupposto che abbiamo inserito un po' nell'anticipare all'interno del nostro programma quella che dal nostro punto di vista era un'esigenza. Come diceva Alessandro, c'è molto fermento in questo luogo, siamo in pochi ma siamo in tanti che abbiamo voglia di fare, e nel voler fare c'è un'esigenza che noi abbiamo e che quindi immaginiamoci sempre dall'altra parte, anche di condividere, ascoltare e essere informati. Quindi ci siamo inseriti, diciamo, tra le prime righe del nostro programma la volontà di condivisione e di trasparenza. Quindi in ciò che vi racconteremo, se avremo la possibilità di realizzarlo e comunque di collaborare a realizzarlo, la volontà è quella di migliorare e ampliare la comunicazione qui con maggior trasparenza delle decisioni, ma anche delle valutazioni fatte, perché come vi dicevo prima, i problemi sono oggettivi, le soluzioni possono essere molto soggettive. E quindi abbiamo proposto di migliorare la comunicazione, lato sia amministrativo, eccetera, eccetera. Abbiamo provato anche ad informarci attraverso repertorio, tutto ciò che sono gli strumenti ad oggi a disposizione, ma vorranno proprio tradurre anche tutte quelle che sono le informazioni per chi non parla la stessa lingua, magari fare più incontri in cui si racconta quali sono i cantieri che partiranno, le decisioni che sono state prese, le valutazioni che sono, i problemi anche, perché spesso condividere un problema con altre persone fa sì che questo problema venga condiviso anche da altri, nel condividerlo ci si sente anche un po' meno soli a sentirlo e a viverlo. E in tutto ciò sappiamo che possiamo portare idee di cambiamento, ma non abbiamo dimenticato la parte delle tradizioni, e su questo devo dire la presenza di Stefi è sempre molto utile, perché unisce anche proprio una parte di storia, di ricerca che ora magari ci racconterà. E il primo punto che avevamo inserito era la prima tematica, era la parte appunto di gestione della cosa pubblica, viene definita, e appunto la parte di trasparenza, comunicazione, cose che vi ho già detto. Sappiamo che ci sono tanti cantieri attivi, lavori in corso, quindi l'idea era ovviamente terminarli, valutare tutto ciò che c'è di aggiuntivo da fare. E capire come riuscire a portare la termine. Sappiamo che ci sono delle presentazioni, lavori e bandi già vinti, tra cui appunto quello dello spazio che viene definita la colonnella di sopra. So che la progettazione è stata già assegnata, quello che ci sarebbe molto piaciuto fare, ad esempio, su quello spazio, è provare a progettarla insieme, nel senso che noi come associazione, come gruppo di persone, una delle tematiche che da che vivo qua dico è mancano degli spazi condivisi in cui luoghi di aggregazione, che anche luoghi dove fare riunioni, anche per queste settimane in cui ci dovevamo incontrare, il tema del dove ci troviamo è un tema. E serve, c'è questa sala che è stata messa a disposizione, eccetera, eccetera, ma è un unico spazio e ha tutta una serie anche di limiti per grandezze, per tipologia e tutto. Quindi l'idea era proviamo a progettare anche gli spazi che abbiamo in condivisione e capire anche quali sono le esigenze del paese, perché magari il nostro è quello di fare incontri, quello dei bambini è di avere uno spazio dove fare altre cose, a seconda dell'età, della modalità, servono spazi anche per diversi utilizzi. Quindi sulla parte della progettazione un po' era questo. Abbiamo inserito un tema che a noi sta a cuore, che è il tema della salute. Devo dire, abbiamo partecipato alcuni di noi alla presentazione della lista di Mauro, e qui vi racconto che cosa abbiamo immaginato e pensato, ma mi affido anche a voi, nel senso che ascoltandovi ho pensato sì, avete assolutamente maggiori competenze per affrontare il tema meglio di noi. Noi avevamo identificato ovviamente il tema delle convenzioni, sappiamo che esistevano, eccetera, eccetera, sappiamo che in parte stanno ancora, avendo anche noi una figlia, e tanti di noi hanno figli, il tema del pediatra è il tema centrale, perché insomma è un problema oggettivo, economico, di gestione, organizzazione, di tutto, quindi quello è una delle cose che avremmo voluto capire, se riattivare, come riattivare e lavorarci. E ho assistito, avevo scritto anche un articolo perché avevo assistito ad un problema di una signora di salute, all'importanza fondamentale della presenza dei volontari a Croce Bianca qui, e quindi l'idea era proprio capire come rafforzarla e quali erano le esigenze anche di questo servizio, che un po' avevo approfondito tramite Mimmino all'epoca, avevo qualche mese fa avevo intervistato lui, ed ero presente ad uno di questi interventi e avevo colto che c'erano delle problematiche, perché successo l'incidente, dopo 5 minuti erano pronti i volontari per partire con la Croce Bianca, con l'ambulanza, e non potevano partire perché c'era un problema di il cellulare, si collegava a quello, dovevano aspettare il pronto intervento, la risposta, la conferma, e tutto il tempo che era stato guadagnato nell'essere lì pronti a partire era stato perso in cose assolutamente, dal mio punto di vista, che possono essere risolte, non so in che modalità, capiremo insieme come farlo. Un altro tema di cui avevamo parlato e discusso molto era il tema del terreni e infrastrutture, l'avevamo chiamato, e eravamo partiti da un'esigenza che avevamo colto, che era quella di abbellire il centro storico, che non è solo abbellire per lato turisti, perché io penso che la bellezza ha comunque un ruolo fondamentale, è stata comprovata questa cosa, e quindi non solo per chi viene sporadicamente qua, ma anche per chi ci vive. E già che si abbellisce, capire di risolvere tutta una serie di problematiche, difficoltà, complessità della strada, del centro storico e di tutto quello che riguarda di via d'Albenga, eccetera, eccetera. E qui era emerso, e anche noi lo viviamo a casa nostra, il tema dei rifiuti. Alcune delle zone dove vengono raccolte i rifiuti sono zone degradate, dove spesso poi col vento questi rifiuti volano, ce li troviamo ovunque, sono anche molto brutti da vedere. Il tema dei rifiuti è un tema di per sé, e appunto anche nell'ascoltare le vostre soluzioni avevamo identificato una serie di possibili soluzioni, anche rifacendoci alle esperienze di altri comuni all'interno delle reti dei comuni virtuosi, eccetera, eccetera. Quindi, avendo intervistato, avendo approfondito anche il tema dei rifiuti, ci piacerebbe capire se sono portabili anche qui questo tipo di soluzioni, e è una delle tematiche che ci piacerebbe capire sia da un punto di vista di decoro pubblico, lo dico perché è proprio brutto vederli, sia da un punto di vista di salute, perché comunque lasci tanti rifiuti per tanto tempo, queste cose crea comunque problematiche, ma proprio anche da un punto di vista di capacità di migliorare. Da questo punto di vista, in tantissime città ci sono modalità molto efficienti per raccogliere e distribuire rifiuti. Qua abbiamo la problematicità che siamo in mezzo a due regioni, capiamo se anche qui convenzioni esistenti prima, non esistenti dopo, cioè capiamo come possiamo risolvere questa cosa. E vi ho parlato prima degli spazi di aggregazione che avevamo inserito sotto questo punto, e migliorarli, utilizzarli di più, anche organizzarli meglio e aprirne di nuovi. E su questi spazi avevamo messo l'attenzione in particolar modo all'utilizzo per anziani, soprattutto nei periodi invernali, trovare un luogo dove potessero ritrovarsi, ma anche per i bambini. Noi organizzando questa attività per i bambini spesso ci siamo chiesti se piove cosa facciamo, e questo era un tema, e quindi trovare una modalità per trovare tutte queste per raccogliere e soddisfare tutte queste esigenze diverse. E un altro tema, già che ci troviamo qua, sono quelle delle attività commerciali, ed era proprio quello di sostenere, ovviamente qua bisognerà capire e cercare di far riavviare questa attività. Io dicevo sempre che Elena, quando mi sono trasferita nel raccontare questo luogo specifico qui dove siamo ad Alvi, dicevo è il centro sociale del paese, perché nelle città esistono questi luoghi che sono un po' a metà, un confine tra attività commerciali e attività sociali. E io venivo qua, ogni volta vedevo persone diverse che ci lavoravano, e spesso ogni tanto lui se ne andava, mi ricordo settimane, e c'erano i ragazzi qua che venivano a fare i compiti la sera, e quindi tu arrivavi, ti bevevi il caffè, nel frattempo aiutavi quello a fare i compiti, o quello che va a gestire il computer lo portava qua, e il primo che passava glielo chiedeva. Quindi era proprio anche un luogo di aggregazione. A proposito di spazi di aggregazione, sarebbe molto bello che questo luogo continuasse ad essere con modalità, persone diverse, eccetera, eccetera, però un luogo come questo. Sappiamo che bisogna sostenere attività di questo tipo, quindi abbiamo iniziato ad informarci anche su bandi possibili, anche per lavoro, partecipiamo spesso a bandi, quindi il tema delle attività commerciali è un tema, e non è solo un tema anche qui legato al turismo, perché i servizi poi si attivano a proposito anche per chi ci vive. Quindi il classico negozio adesso che ha Alberto è sì funzionale per i turisti e sta in piedi grazie ai turisti, perché disponibilità economiche ed esigenze degli abitanti non sono sufficienti anche proprio a livello numerico, visto che siamo in pochi, per tenerlo attivo, ma è fondamentale che ci sia anche per chi ci vive come servizio e creare posti di lavoro, assolutamente. E il tema dei rifiuti ve l'ho già raccontato. Avevamo inserito temi come l'agricoltura in generale, lo sviluppo del territorio e di tutta la parte ambientale. Qui magari se hai voglia di raccontare tu in breve. Sì, sull'agricoltura è inutile probabilmente anche solo starmi a parlare, però sappiamo benissimo che altro storicamente l'agricoltura è molto sviluppata, negli ultimi anni anche questa è stata un po' abbandonata, adesso ci sono state iniziative come quella dei generi eccetera, per riattivare delle cose, dobbiamo studiare per sostenere un recupero di attività agricole di vario genere, diciamo il mio, capire quali terreni, sostenere chi decide di inserirsi in questo. Quindi da un lato valorizzare le culture tradizionali, sappiamo bene, per esempio, pensate a la rapa bianca, il residuo sul frutto di capra 1, no? Che ne ha parlato Gravi 5 e tutto il resto, perché hanno avuto la bravura in questo caso di farsi riconoscere una rapa, no? Che non ci vuole là, perché sono anche un cibo non molto. Tu lo sai che era nata come alto capra 1. No, non sapevo. però questi rapporti. Oggettivamente, ok, quindi valorizzare il capra tradizionale, sappiamo bene che in questo campo, un momento storico dove. Sì, però non è del tanto, no, sicuramente. Quindi possiamo sicuramente creare un'economia intorno a questo. Possiamo creare un'economia intorno a questo, quindi non solo fare una cosa bella che è coltivare, quindi dare lavoro, creare cibo, perché vive qua è assurdo, a me quello che colpisce spesso è che molti di noi che vivono all'alto, se non abbiamo un orto, dobbiamo andare a comprarci le verdure al supermercato, no? Che è un paradosso dei paradossi, cioè tu c'hai la terra qui, ti vai a prendere la verdura magari piena di chissà quali sostanze, quindi insomma. Sicuramente tutto quel tema lì. Abbiamo ipotizzato, abbiamo prima Roberto ci ha parlato dell'ottica di valle, ma è chiaro che se pensiamo solo come altro lo sviluppo è molto limitato, se ragioniamo con una parte in Hawaii lo sviluppo è molto più ampio. Da questo punto di vista abbiamo immaginato anche di promuovere dei mercati di valle che prendano i prodotti di capra un altro, non siano Castelbianco, li portino verso Albenga, quindi creare una sorta di consorzio che crei una valorizzazione condivisa dei prodotti, quindi un'economia condivisa. Tutte le ricadute possibili che potete immaginare, promozione della riqualificazione dei terreni abbandonati laddove i proprietari ovviamente siano disponibili, siano interessati ma magari non abbiano il tempo di seguirli e aiutarli in questo. A questo si aggancia il tema del territorio più in generale. Sappiamo che ci sono voci strane su di noi che allora se vincono quelli non si potrà più tagliare la legna, abbiamo scritto anche un po' scherzando, no, non mi faremo morire di freddo. Cioè il fatto che ci sia, che oggettivamente c'è una sensibilità, sarebbe il popolo italiano verso questi boschi, verso questo luogo. Uno scappa dalla città, deve avere un posto del genere, non per vederlo cementificato, ovviamente non si dire che siamo cretini. Ok, pensiamo che non si possa appunto fare la legna per tagliare, per riscaldare, per produrre anche economia, tutto ciò che comporta. Anche perché quindi, in ogni caso non lo decidiamo noi, ci sono delle leggi che sono. No, questa è la base. Che cosa fare, no? Questa è la base, però è anche importante lì, visto che sono certe tutte voci che la sensibilità verso l'ambiente, i boschi, eccetera, non significa ottusità, significa sensibilità, significa voler valorizzare e promuovere il territorio inclusivo. In quest'ottica, vabbè, vi dico un'altra banalità clamorosa, ma abbiamo questo laghetto meraviglioso che chi è di alto apprezza, chi non è di alto adora, cioè noi tutti quelli che portiamo a vedere questo lago impazziscono, no? Io e Amano ci siamo voluti sposare, anche lì c'è un modo meraviglioso, incantevole, ho amici che hanno girato un mezzo mondo che quando vengono a trovare, quindi portami, ti prego, no? Quindi valorizzare al meglio il lago, ovviamente c'è il tema della chiesa da ristrutturare, è già in atto, lì l'amministrazione dovrà sostenere e guidare questo percorso. Quindi qual è il nostro rapporto con il territorio, con il discorso agricolo? Valorizzare al meglio, ripulire, chi conosce Fascei sa che è una discarica, questa roba mi sta, c'era la macchina già quando ero bambino abbandonata, ma negli ultimi 3 mesi qualcuno ci ha buttato dell'Ethernet, ci hanno buttato dei mobili, adesso qualcuno produce. Quindi non so, da un lato capire come fare a impedire questa mostruosità medievale di buttare. C'è una poltrona, io questa poltrona l'avevo portata in discarica a Pizzano, me la sono ritrovata nel bosco, era di casa mia, l'ho riconosciuta. non so più come è finita lì. Quindi, cioè, veramente impedire queste discariche a cielo aperto, questo per noi è tutto il territorio, e quando devi andare a trovare gli amici, per una passeggiata, non mi fai trovare i sentieri, tutto il tema insomma che conosci. Quindi valorizzare questo nell'amore per questi luoghi, ma assolutamente non nel rendere ostacoli alla vita quotidiana di chi invece con questi luoghi anche si scalda, si nutre e così via. Un altro dei temi che abbiamo approfondito in questi anni, ancora prima di tutto ciò, è la parte dell'educazione, che è un po' una parte di approfondimento del lavoro che facciamo, un po' una spinta, una passione mia, mi sono sempre piaciuti i bimbi, quindi ho sempre approfondito un po' e letto su questo tema. E quando ci siamo trasferiti qua io e Daniel nel creare anche l'associazione Altopia, abbiamo capito che il tema dei bambini era centrale, perché molti amici che ci dicevano bellissimo quel posto, io ci vivrei, ma ho bambini e devo capire come mandarli a scuola, come gestire le attività, eccetera, eccetera, a livello proprio anche organizzativo, il loro punto era molto organizzativo. Quindi nella prima versione, con i primi soci di Altopia, avevamo iniziato ad immaginare una scuola qui all'alto, dove puntavamo proprio in basso. E quindi avevamo iniziato a muoverci in quella direzione, andando a parlare con le scuole che ci sono, pubbliche e private, capire se era fattibile. Non immaginavamo aprire una scuola da zero, ma anche solo che fosse un distaccamento di una scuola già esistente, iniziando con una scuola materna, e nel far questo avevamo iniziato con tutta una serie di attività all'aperto, perché erano buoni cittadini vivendo qua, quindi erano passeggiate in mezzo al bosco con i bambini, anche proprio per abituarli e mostrare loro un altro modo di vivere, di sentire, di percepire questo luogo, e laboratori per loro. Poi tramite Mabel abbiamo iniziato come associazione, in primis lei e Valentina, una proposta loro di gestire il dopo scuola di Zuccarello, cosa che stanno portando avanti da anni in maniera egregia. E poi abbiamo conosciuto Chiara, che si è trasferita qui con un primo progetto a Capraluna, in cui avevamo avviato un inizio di scuola, di esperimento, diciamo, di scuola, e lei si è trasferita qui per essere la nostra educatrice di riferimento. Passo la parola a Chiara e a Marianna, un po' che ci racconti che cosa avevi immaginato e sognato su questo tema dell'educazione. Esatto. Come abbiamo detto, eravamo partiti con l'asilo nel bosco e nel frattempo sono venute anche tante altre idee. Anche stando qui ad alto, abbiamo detto anche prima che la popolazione è in lento ma costante aumento e i bambini, se ci pensiamo, sono una percentuale molto alta. Io ho contribuito anche qua a aumentare questa percentuale. E quindi abbiamo pensato di aumentare o di creare dei servizi per le famiglie e per i bambini, quindi che siano un aiuto concreto per le famiglie e che vadano a fare qualcosa di bello, ad insegnare qualcosa ai bambini. Visto che abbiamo questo territorio e queste possibilità, abbiamo pensato soprattutto ad attività all'aperto. Abbiamo fatto l'esperienza del doposcuola che si basa sull'educazione in natura a Zuccarello, sarebbe bello poter portare qualcosa del genere anche qui. Un'altra idea che avevamo avuto e che è emersa anche durante il laboratorio di ieri è quello del, è stato definito ieri, l'orto didattico, quindi di un orto condiviso per i bambini, dove i bambini possono magari anche imparare qualcosa dalle altre abitanti della popolazione, perché se poi si fa qualcosa per i bambini non è detto che quell'attività sia prendete pure i bambini, fateli fare qualcosa. È anche bello, è anche utile, è importante far comunicare le generazioni. Nei paesi del nord ci sono spesso le case di riposo al primo piano e gli asili piano di sotto. E le due realtà comunicano costantemente e la cosa fa bene a tutti quanti, insomma. Quindi partire con questi servizi che non sono per i bambini che ci sono adesso, per i nostri bambini, ma sono anche un'attrattiva appunto per le famiglie che pensano, che sognano magari di venire in zona, di trasferirsi qui, ma che poi dicono ma come facciamo? E un altro punto importante che vorremmo mantenere è proprio quello del trasporto scolastico, che permette a tutti i bambini di frequentare la scuola. Grazie Chiara. In aggiunta a questo volevo inserire anche un piccolo elemento, ma per me importante, che era l'elemento della biblioteca. Io mi sono messa la biblioteca da che sono arrivata, perché avevo aprire a tutti i costi. E avevamo fatto un piccolo passo con Ale, che ha realizzato lui stesso il book crossing che c'è qua fuori dal comune. L'idea è ampliare e rendere accessibile una biblioteca per grandi e piccoli a tutti. Qui il tema dello spazio era l'elemento che ci ha poi frenato, perché fondamentalmente non sapevamo dove metterla, quindi io sto accantonando i libri e questa biblioteca si aprirà in qualche modo. E avevamo ipotizzato una sala prove per adolescenti, ma comunque uno spazio per adolescenti, perché ci sono adolescenti ad alto, ad oggi pochi, questi bambini cresceranno e sappiamo che gli adolescenti hanno necessità di luoghi dove poter fare cose, condividere e stare. E quindi questo è un po' il tutto. E, vabbè, avevamo inserito a proporre iniziative culturali, però sta un po' all'interno dell'elenco che abbiamo fatto. E, un altro tema che ha già un po' accennato Daniel era il tema dell'energia. Ci siamo domandati cosa fare a livello anche economico. E, partendo anche un po', devo dire, dall'esperienza a casa nostra, abbiamo ristrutturato casa e abbiamo fatto un impianto fotovoltaico banalmente, e l'elettricità la utilizziamo per scaldarci, cucinare, per fare tante cose. E abbiamo visto questo costo della bolletta diminuire. Per lavoro abbiamo approfondito, in particolare Daniel, il tema delle comunità energetiche che si stanno diffondendo in tutta Italia e non solo. È uno strumento che è stato previsto da legge, che viene finanziato dallo Stato, che permette attraverso le energie rinnovabili di abbassare e ridurre moltissimo i costi dell'energia di tutto il paese, quindi non solo qui, non è questione di chi aderisce o chi no. Quindi l'idea era provare ad accedere a questi finanziamenti, a questi bandi, e provare a creare una comunità energetica che vada proprio a ridurre i costi, e facciamo anche una questione ambientale, insomma, di utilizzare il meno possibile l'energia che arriva da combustibili fossili. E un altro grande tema su cui ci siamo soffermati molto è il turismo, perché abbiamo detto che è importante portare persone qui che hanno figli, quindi creare strutture, servizi, eccetera, eccetera, ma il turismo è l'altra, dal nostro punto di vista, motore che porta persone, che porta economia, che porta anche sviluppi di questo luogo. E abbiamo provato, grazie a Roberto, grazie alle altre amministrazioni, grazie soprattutto a Marina, ad immaginarci un turismo di valle che sia più etico, naturale possibile. Quindi non ci immaginiamo una di tra 500 persone che viene ad Alto, anche se non sapremo dove mettere a mangiare, a dormire, ma ci immaginiamo un tipo di turismo come è Alto, a misura di Alto, quindi un turismo lento, sostenibile, che duri tutto l'anno. E per questo servono idee, capacità, competenze per attivare anche servizi e supporti a questo turismo. Su questo, come vi ha raccontato Marina, io la chiamo per intervistarla, stavo approfondendo per lavoro, ma ho vinto un bando per lavorare sui temi di confine, su aree di confine come questa, e sul bando c'era una parte legata al tema natura ambiente specifico. Quindi dico, chiamo Marina, cioè lei più di lei chi è che lo può sapere. E nel raccontargli questo, gli racconto che volevamo fare questa lista, eccetera, eccetera, e dico, Marina, aiutaci a capire come sviluppare questo turismo in questa valle. Quindi sei voglia, Marina, di raccontarci cosa hai immaginato. Beh, io sono una persona piena di fantasia, è una sognatrice. Non sempre i miei sogni si avverano, però spesso sì. Lo sapete che il turismo è la seconda industria italiana, non ne parla nessuno, o se ne parla male, però è la seconda industria italiana ed è importantissimo. Noi, se riusciamo a sviluppare un turismo giusto, giusto cosa vuol dire? Nel rispetto della natura, nel rispetto dei cittadini, non il turismo delle Cinque Terre, ok? Tanto non abbiamo le Cinque Terre, tanto non abbiamo. Però adesso loro hanno svalicato troppo e hanno dei grossissimi problemi a mantenere tutto questo turismo, anche solo di fognature, ragazzi. Quindi, se noi indirizziamo un turismo giusto, che cosa vuol dire un turismo giusto? Vuol dire un turismo di che cosa abbiamo. È inutile che ci andiamo a costruire lo ski lift. Non nevica abbastanza, non nevica più da nessuna parte. Cioè, tutti voi conoscerete gli ecomostri di Viola San Green. Cioè, ragazzi, quella è veramente una cosa orribile. Oramai non nevica più ed è tutto abbandonato. Ma la seconda industria del turismo è anche la seconda industria perché accede a moltissimi bandi europei che noi stiamo dimenticando. Ma sono soldi, signori, sono la possibilità per i nostri figli di continuare, i miei figli oramai sono grandissimi, di continuare a vivere qui. Sì, io sono la più vecchia, quindi immaginate un po', di continuare a vivere qui. Per perché andare a vivere chissà dove, a Torino, Milano, mentre qui c'è la casa dei nonni, la casa dei genitori, dove sono cresciuti, dove hanno le radici, perché non c'è lavoro. È banale questo, no? Perché se ne vanno? Perché non c'è lavoro, a meno che il nonno gli abbia lasciato 1 milione di euro, ma poi ancora. Quindi il turismo è molto importante per le future generazioni, per i ragazzi che vedo qui. Ma perché? Perché può dare del lavoro vero. E che cosa si fa? Perché queste che ho detto sono parole vuote, ma bisogna fare qualcosa. Che cosa si fa per fare turismo? Allora, primo bisogna coinvolgere i cittadini, perché i cittadini non lo devono subire. I cittadini devono essere partecipi a questi ospiti, perché chiamarli turisti è molto brutto. Il turista è quello che fa morde e fugge. Noi dobbiamo avere degli ospiti che si fermino sul territorio e che ci lasciano dei soldi. Perché parliamo molto banalmente, ma se i nostri figli devono aprire un bed and breakfast, un bar, un ristorante, fare le guide, affittare delle mountain bike, sono attività remunerative come se facessero l'impiegato a Milano o come se facessero lo spazzino a Verona. Quindi devono poter campare, e per poter campare questi turisti bisogna farli arrivare, questi ospiti. Cittadini, ospiti e quello che abbiamo. Niente di più. Creare un paio di manifestazioni all'anno che creino tanto movimento. Adesso vanno molto di moda le corse in montagna, sono tornati molto questi trail running. Questi creano movimento, non lasciano tanti soldi sul territorio, come non lo lasciano molto gli arrampicatori. Scusatemi se qualcuno di voi non è d'accordo, ma io ho gestito 8 anni il rifugio Pian dell'Arno e so perfettamente chi mi lasciava dei soldi. Trekking e bici. Gli arrampicatori si arrangiano molto da sé. E quindi tanto di cappello, perché fanno conoscere la valle, perché qualche soldo gira, però trekking e bici, trekking e bici. Quando uno arriva con una bici da 5-6 mila euro, non gliene frega niente di fare una notte in rifugio, di aprirsi la bottiglia buona, di fare colazione e di tornare. Quindi, quelle paio di manifestazioni importanti servono per far risuonare il nome. Alto, alto, vale pena vare, alto, vale pena vare, siamo andati lì, siamo andati lì. E poi c'è la percentuale di quelli che tornano. Inverno, le scuole, fare sì che le scuole, ma piccoli gruppi, signori, cioè una, due classi, che le scuole siano i nostri emissari fuori, fare sì, i parchi adesso hanno individuato nei ragazzini i Young Ranger. I giovani ranger danno la spilletta, il cappelletto, lo zainetto e questi vanno da un parco all'altro per farsi fare un timbrino e avere il passaporto da Young Ranger. Cioè avere queste idee per coinvolgere le scuole, non le classiche gite. Sfruttare questo cavolo di pullman che va su e giù, a parte i ragazzi delle scuole, io oggi l'ho visto passare 2 volte, vabbè, ero a casa loro, vuoto. Lo sappiamo benissimo che sale, scende, vuoto da caprona. Perché potrebbe portare sui famosi turisti le mountain bike? Io nel 2013 feci un progetto che presentai allora al vice sindaco di Albenga, perché il sindaco non mi ricevette. Ma perché lo presentai a lui e non al sindaco di Caprona? Perché non ce l'avevamo, il sindaco si era dimesso. E c'era un commissario che non ne aveva per le palle di prendersi anche sto mal di pancia, oltre che si è preso il mal di pancia che mi era volato via il tetto. Quindi ho presentato il progetto ad Albenga per fare venire su con il pullman le persone con la mountain bike. Oh, erano tutti entusiasti, bellissimo, ho scritto, ho studiato, mi ero documentata. Penso che sia ancora nel cassetto di quello che allora era vice sindaco e che adesso è sindaco, perché mi doveva chiamare la settimana successiva, ma da allora si è sempre fatto negare. Quindi questo porterebbe su delle persone giornaliere. Noi dobbiamo comunque puntare a un turismo di più giorni, perché il turismo di più giorni lascia i soldi sul territorio, va a dormire, va a mangiare, usa le mountain bike elettriche, usa le guide. Non possiamo pensare che ad Alto ci sia un ufficio turistico. L'ufficio turistico deve essere di valle, perché noi abbiamo delle grosse potenzialità come valle. Alto è a media valle, Caprauna è alta valle, Nasino e Castelbianco sono in basso. Quindi si parte proprio e si ha ognuno un'emergenza climatica, naturalistica diversa. Quindi la nostra idea, come vi ho detto, è, a parte le passeggiate, le scuole, adesso vanno di moda i cammini. Oggi mentre salivo sentivo delle interviste sulla nuova via, non più francigena, ma un lato della via di San Francesco adesso. Quindi la via Francigena l'hanno divisa, una parte la chiamano via di San Francesco. Noi abbiamo un eroe della partigiano, che da anni che ne parlo con Renato Sicca, poi anche lì non siamo riusciti ad prendere i bandi nel momento giusto, ma abbiamo la possibilità di fare la via di Fischi al Vento, che se ne è già parlato, si è già iniziato a fare qualche cosa. È importantissimo, le vanno di moda, oramai le persone vanno a fare questi cammini per ritrovare se stessi, speriamo che non si perda, però vanno di moda tantissimo. E tu, non parliamo delle vie più famose, ma parliamo anche di quelle semplici, ne escono di continuo, Sant'Anna, San Celestino, San Michele, la via... tutti nelle marche, e santi, perché pareva che questi santi camminassero tantissimo. Quindi anche noi, turismo di richiamo, per far entrare il nome, avere appunto della ricettività dove far stare sta gente, ma non solo ad Alto, abbiamo Casino, abbiamo Caprouna, abbiamo Castelbianco, tutti insieme dobbiamo lavorare, perché per adesso lavora solo Castelbianco con gli arrampicatori, ragazzi, solo loro, e ve l'ho già detto prima, non sono degli altri spendenti. Se noi vogliamo che i nostri figli rimangano a vivere qua, mettano radici, facciano famiglia, e questa diventa una comunità sempre più allargata, facendo scuole, strade, mettendo a posto il centro storico, facendo tutto quello che abbiamo in mente per i cittadini, dobbiamo creare delle soluzioni economiche. E non è certo pensare di far venire qui uno stabilimento della Fiat la nostra soluzione economica. La nostra soluzione economica è il turismo ambientale. La gente sta cercando questo nel dopo Covid, ragazzi, è scoppiato. Io faccio la guida escursionistica e ho sempre più gruppi e sempre più richieste. Perché? Perché la gente vuole stare in natura, ha scoperto che abbiamo anche i boschi e che abbiamo una cultura. Qui abbiamo una grossa cultura, questa era una valle di passaggio, era una delle tante vie del sale, a Martinetto c'era la dogana. Poi passavano i contrabbandieri per non essere presi nelle vie ufficiali. Cioè, ne abbiamo un sacco di cultura, la Madonna del Lago, tutte le leggende, le nostre rocce. Ma ce l'abbiamo, non dobbiamo andare a comprare, non dobbiamo costruire il capannone, usiamo quello che abbiamo, usiamolo bene. E facciamo quindi turismo e facciamo economia, perché è inutile che ce la veniamo, cioè sì, andiamo pure a abbracciare gli alberi, però dobbiamo anche alla sera mettere un'insalata nei piatti. Ok? Quindi la nostra idea è questa, di portare eventi, di portare scuole, di fare un'unione di valle, e Roberto è proprio la persona giusta per unire la valle. Si era già iniziato qualche anno fa, si era già iniziato a fare questo lavoro, e che poi che cosa è finito non lo so, ma in che cosa vedo che è finito? Dei cartelli Valle Penavaire, che prima non c'era. Un passo avanti è stato fatto, diciamo, dove era stato il mezzo, era stato il mio Valle Penavaire, aveva studiato mio marito, era uno dei pochi casi in cui i quattro comuni erano riusciti a... Bravo. Bravo, allora io mi sono studiata in questi giorni, ma mi sono ripassata, scusate, in questi giorni il ruolo dell'escursionismo nel rilancio del turismo montano, il caso Valle Maira. Adesso noi non facciamo i figli come la Valle Maira, Però Vale Maira non parla di Dronero, non parla di Acellio, non parla di Macra, la conosco bene, ok? Perché non ho solo studiato questo testo. Parla di Vale Maira. Tu non sentirai mai dire il rifugio di Acellio che dice io sono ad Acellio, ti dice io sono in Vale Maira. Capito? Non ti dicono io sono Dronero, ti dicono io sono la porta della Vale Maira. È questo che dobbiamo cambiare tutti insieme. Noi siamo in Valle Pennavaira, che poi qualcuno discute e dice che si dice Pennavaira. Però vabbè, lasciamo perdere. Ok, poi abbiamo questo bellissimo libro. Ti dice qualcosa? Vero? Qualche cosina hai scritto che non conosciamo. Se noi solo avessimo letto questo bel libro, sapremmo che cosa abbiamo, una minima parte di quello che abbiamo. Ok, io ne ho due copie, ma non ve ne do. Una la mettiamo nella biblioteca che fa male. No, che morta! Faccio le fotocopie. Ah, grazie, grazie, sì. E lui. Allora, poi, quindi queste Vale Maira, Val Pennavaira. Alte è tutto. Pennavaira. È il rio che è Pennavaira. Ok, è il rio che è Pennavaira, la valle è Pennavaira. Vabbè ragazzi, scusatemi le vocali, però abbiamo sempre detto Val Pennavaira, ho perso il filo. Il turismo deve diventare la prima economia della nostra valle. Perché se no moriamo, ragazzi. Se no diventiamo uno spettro di paese e invece c'è una crescita e dobbiamo tenercela stretta, stretta, stretta, stretta. Lo sapete, noi alla Madonna, Madonna del Lago, dove c'è il lago, insomma, la località si chiama Madonna del Lago, dico bene. Ci sono due tipi di uccelli, tanto per parlare di turismo ornitologico, che vi farà ridere. Ma invece è sviluppatissimo, che esistono in tutto il Piemonte, non solo lì. Mi sono scritta il nome perché non volevo dimenticarmelo: Occhio Cotto e Magnanina. Molto diffusi nelle aree vicino al mare, questi due tipi di uccelli e ornitologi da tutta Europa, come per il tulipano dell'Arnetta. Ma no, naturalmente noi non lo sappiamo, vengono per ascoltare i canti, per individuarli, come per il tulipano della Rometta, che ha una particolarità diversa dagli altri tulipani locali. Quindi non dobbiamo proprio costruire un capannone, metterci dentro schiavi a lavorare, non dobbiamo proprio fare niente di tutto questo. Dobbiamo usare il territorio in modo intelligente. Come sta? Guardate, basta copiare in certe località del Trentino. Se poi vogliamo copiare, copiamo dalla Vale Maira. Oramai in Vale Maira hanno una media di spendenti altissima di turismo, primi i tedeschi, secondo gli svizzeri e terzi gli italiani. Mi è capitato qualche anno fa di andare in Vale Maira e di essere l'unica automobile targata italiana. In certi momenti non trovi veramente posto. No, non trovi posto. Tu non ti immaginare adesso di telefonare e dire fine luglio, fine agosto, metà settembre, da un anno all'altro. Proposto, visto che si sta facendo tardi, ho entrato nel proposto. Io sono prolissa. Un'ora, un'ora e mezza al massimo, poi aperitivo. Direi che intanto rimaniamo qua, quindi chi volesse approfondire siamo qua a disposizione. Darei la parola a Stefano, perché a proposito di valori, tradizioni e saperi del posto c'era un'idea attraverso di lei, le conoscenze della famiglia e la sua passione che si porta dietro, di far parte, quindi in qualche modo raccogliere queste sapere, tradizioni e conoscenze del luogo per sfruttarle anche a livello turistico e farle conoscere a tutti. E dopodiché darei spazio alle domande, perplessità, dubbi. Ma le possiamo fare con l'aperitivo le domande? Magari se ci sono delle domande che vogliamo fare un po' più approfondite, facciamo tutti. Parliamo. Allora, io le cose che so, diciamo, non è perché le ho viste, ecco, qua c'è gente come Angelo, che se gli è andato a chiedere qualcosa lui le sa perché comunque le ha vissute, sempre stato qua, e quindi io le so perché comunque me le ha raccontato mio zio e anche lui le ha viste, quindi diciamo che non è che io le so. Esatto, perché comunque mi sono state dette e da mio zio diciamo c'è questa cosa che dalla mia bisnonna Nina si tramanda di famiglia in famiglia questo sapere, diciamo. Quindi io tutte le cose che so le devo un po' a mio zio, un po' ad Angelo, un po' a Giacchetta, che non c'è più, che comunque mi ha detto un sacco di cose su questo territorio. E appunto io quando facevo le visite nel castello, l'ho fatto per 3 anni, io dicevo tutte queste cose, quelle che mi erano state riportate, cioè io dicevo che non è, quelle che ho visto sulla mia pelle sono state cose rimandate, ecco, cioè tramandate, ecco. E quindi... Si potrebbe fare un testo, Stefania, potrebbe fare un testo molto, tanto lei ha le competenze. E beh, certo, si potrebbe cominciare a parlare di turismo, di storia, grazie anche a Stefania e le sue competenze, cultura, tutto insieme. Ad esempio che è uno dei pochi paesi che possedeva la cucina, quindi era assolutamente autonomo, avrebbe potuto vivere senza nessun contatto con l'esterno, coltivavano il lino, la canapa, avevano appunto la cucina che veniva seduta dai Savoia, perché i Savoia appena entravano in te non volevano avere nessun problema, cioè tutto doveva essere accentrato. E lui non era riuscito a scaturire bene dove era. Sì. Aveva fatto questa chiacchierata, ma aveva aperto un mondo. Avevano la centrale elettrica. Anche a noi che comunque viviamo qua. Ma aveva detto delle cose incredibili. E dove erano? Ce n'è un asino, ce n'è qualcuno qua. E con suo Stefania abbiamo iniziato un progetto con tutti i toponimi qui della Valle, ce ne sono di incredibili, e abbiamo fatto una cartina e in gestazione da un po' di tempo con tutti con tutte le edicole, con tutti i nomi che sono stati dati nei secoli a questi posti, Bruxia perché bruciavano e interessantissimo questa cosa, che però si perde se non c'è nessuno che la... E con Mario e con Alberto stavamo preparando invece comunque una pubblicazione con i sentieri qua intorno, la gente appunto ha voglia di camminare ma se non si deve neanche perdere. Anche perché poi dovrebbe andare a riprendere, quindi non è un problema a venire dei soldi. Quindi i progetti ci sono cose interessantissime. E i soldi anche ci sono, basta andare a prendere, basta essere capaci. E ricordatevi che noi abbiamo tanti sentieri, ma tutti abbastanza ben segnati. Io per esperienza, cioè i nostri vanno bene. Stefi, metterei un libro insieme, io di escursionismo e lei di storia. Faremo escursionismo storico. Brava Stefi. Abbiamo vinto tutto. Un'altra cosa è turismo. Aspetta, lasciamo spazio a dove. Sì, voglio solo prendere questo unito al turismo culinario. La gente va a camminare e ha voglia di mangiare e di imparare a far da mangiare. Qualcuno ha cose da raccontarci o da chiederci? O vi abbiamo tramortito con troppe parole, ragazzi? Le domande? Ma abbiamo due bellissimi luoghi qui. Una volta anche era una presentazione qui e anche ho capito qui che i morti vivono da sempre fino alla saputo. Diciamo che attualmente siamo fuori dal Valguarese per terza per lunghezza, siamo 7 km l'uno per mezzo all'altra e purtroppo manca la gente per andare avanti. Sì. se sia anche questo il turismo di grotta. Sporca meno, sporca meno. Poi la sporcizia non la vedi. E so che venivano ad esempio il gruppo a osservare le stelle, gli astrofili, gli astrofili, una cosa fantastica secondo me, e che anche quello tira tantissimo, tira tantissimo, e va bene per i grandi e per i bambini, perché ho visto che la sera avevamo fatto qua era uno sforzo, c'era un fiume di gente peraltro. Questo tipo di attività, ecco, bisogna pubblicizzarla, ormai si pubblicizza. Bisogna usare i social, cioè nel senso sulla bisogna avere appunto i social, ma anche lì si dividono un po', Facebook è un po' Instagram, padre, gli altri social, sappiamo che viaggiano di più i giovani, no. Quindi dipende da chi ti rivolgi. Arrivando dal settore della comunicazione, quello non ci spaventa, però è proprio anche riuscire a comunicarlo nel modo giusto, con i mezzi giusti e anche cosa interessa le persone, ecco, prima di attivare percorsi, riuscire a fare. Però ormai c'è il mondo va adesso. Ci sono domande o interventi? Prego. Buonasera a tutti, sono sempre senza voce. Ma sono ancora peggio. Vieni un po' più avanti, ci sentiamo meglio. Di quello che mi presento, anche se non è, sono un nipote di Renato, ho una casetta qua, sono arrivato e cresciuto qua. La premessa è che, ho sentito anche l'altra sera fatalista, il fatto che ce ne siano due, che ci sia energia, secondo me è una bella cosa. Vuol dire che io capisco che io faccio un amministratore, è importante, ci vuole di fare, con l'inca migliore. Due stili completamente diversi, chi conserva, questa è stata l'impressione, e chi ha delle visioni del paese più moderno. Io vi dico quello che è il mio pensiero. Penso che per fare un buon amministratore bisogna vedere l'alto del domani, non l'alto dell'indietro, che l'alto dell'indietro ce l'abbiamo, bisogna progettare andare avanti. Mi sono piaciuto entrambe le liste, non voglio dare un giudizio, non sarebbe neanche giusto, quanto non voto. Molto interessante quello delle comunità energetiche, che era stata chiesta anche a me, a ottobre dove sono il sindaco, un po' difficile, perché la comunità energetica può essere attuata in un paese come questo, dove tutto viene messo a disposizione, dove c'è contatto umano, con riunioni, difficile magari da capire chi non la conosce, ma attuabile, perché deve essere veramente un bene a disposizione di tutti. Sentirlo così non è comprensibile, perché è veramente nel breve, ma è veramente interessante, infatti non aveva colpito questa cosa qua. Molto interessante, penso che sia la VC, il discorso dei bambini. I bambini sono il futuro. Se non si punta sui bambini si sbaglia. Quindi fate bene, perché il fatto che ci siano dei bambini e riuscire a vedere tante coppie giovani qua vuol dire che le organizzazioni hanno lavorato bene, se no non succedeva. Questo è un giudizio non di parte, ma da città, più o meno cittadino. Servizio scuola, bus, entrambi l'avete detto, penso che sia basilare. Ci sono dei rappresentanti molto anche interessanti nella parte sanitaria loro, che è assolutamente interessante. Molto bene per quanto riguarda la sideristica, che sono cambiato di montagna, in Carlito, quindi conosco tutto qua, è originata per un condivido di nuovo la parte del turismo sostenibile, che questo è quello che vuol dire. Che vuol dire, io lo spiego in maniera, non nel mio caso, perché diverso, ho una casetta, uso un locale dove posso fare business minimo, quindi non di massa, alimenta il paese. Sicuramente facendo business o creando business la precedente amministrazione si è aperto qualcosa, se ne è chiuso un altro facciamo qualcosa, se no questo paese va a morire. Questo è un po' che mi ha colpito di voi, ok? Una buona visione del futuro, quindi personalmente vi faccio complimenti, ok? Grazie. Sì, pensavo che ti avevamo tutti, che ti partecipassi, che facessi delle domande. Grazie, grazie per aver finito il tutto, Marco, che l'ho mandato bene. Grazie. No, ma va bene. Grazie. Posso permettermi di dire, ma un po' per il momento, voglio collegare a quello che Alto Alessandro sulle comunità energetiche, certo, vi consiglio di mettervi in contatto con Magliano Darbi, dove c'è una comunità energetica molto molto sviluppata. Sì. Io penso che la collaborazione tra comuni sia proprio diciamo la rotaia portante per poter cominciare a imparare che cosa vuol dire una comunità energetica. Sì. Siamo tra l'altro, perché io quel lavoro che ho occupato di approfondire il tema delle comunità energetiche fino a, diciamo, le comunità energetiche nascono da un deputato europeo italiano che ha scritto questa legge due legislature fa, e che si chiama Dario Camposano. Quindi ho seguito il processo fino all'inizio, e questa comunità che hai citato, in generale si sta cercando di creare una rete, diciamo, ligure, qui siamo in Piemonte, però adesso in questo caso come territorio più ligure, con anche alcuni partner che producono energia, e ci sono un casino di bandi che vanno in questa direzione, quindi lì si potrebbe veramente, e sono d'accordissimo che è fondamentale creare connessioni con i giornali che hanno già fatto questa legge. Mi voglio collegare un attimino a un altro discorso, sempre sull'energia, intesa non come fattorie dal vento, perché qui ci hanno già provato. Gli impianti eolici. Sì, no, non eolico, no, ma ci stanno bene anche gli impianti eolici, però dove possono essere diciamo installati, perché installare gli impianti eolici come al passo di Prato provato qualche anno fa, voleva dire rovinare tutte le falde acquifere sottostanti, quindi a quelle di Colle San Bartolomeo, ti proponiamo di farli mettere quelle di Colle San Bartolomeo, sì, me lo ricordo. Guarda, ho lavorato 4 anni nel settore delle energie rinnovabili, facevo marketing intelligence, si chiamava il ruolo che avevo, ed era proprio valutazione di che tipologie di impianti potessero installati dove e a chi venderli a seconda di reddito pro capite, eccetera eccetera. E ho passato anni con davanti questi conti energia, con un sacco di gente che sfruttava queste situazioni e questi, come sta succedendo adesso con il 110%, eccetera, eccetera. E la società, lo dico vergognandomi, per cui lavoravo, ho scoperto dopo che era parte di questo processo assolutamente. E non si usa più i grandi impianti perché abbiamo capito che a livello ambientale fanno dei danni mostruosi. Quindi ad oggi anche la parte di incentivi, modalità, gli studi, le ricerche stanno andando. I grandi impianti come i grandi impianti, tipo a livello eolico ad esempio, tutta la parte di valutazione per poter installare un tipo di impianto di quel genere dura anni, perché devono comprendere che comunque i danni ci sono, uccelli, cambia un sacco di tipologia a livello ambientale, che sono creare delle. Sì, le eoliche e guardi solamente il progetto del Bartolomeo. Sì, è già e a livello economico, invece piccoli impianti ma diffusi ad oggi sono le soluzioni che sono più consigliabili da su diversi punti di vista. Fare un impianto eolico a San Bartolomeo significa fare un disastro ambientale. No, infatti non stiamo. Credo che stava dicendo esattamente così. No, anni fa l'avevano studiato, Però poi si era messo. Ovviamente c'è un misuratore. C'è ancora un misuratore? Sì, non ho capito. Dalla parte di Capone. Ma è sempre lo stesso? È sempre lo stesso? Ma l'hanno rimesso? Comunque, No, non intendiamo. Comunque, a prescindere da questo dibattito, la comunità energetica non si basa su questo, si basa sul fotovoltaico diffuso, quindi risolve il problema alla base. Non c'è questo tipo di impatto, sicuramente. Un'altra piccola cosa che mi viene in mente, il discorso di sviluppare il turismo, quindi aprendo più mini attività, perché io ho una casetta in montagna, vivo con questo stile, no? Facendo proprio tanto escursionismo, vedo, sono un sottotema a Maira, ho girato, sono micro attività che poi il beneficio, oltre ad averlo economicamente tutto il paese, perché poi riesce a vendere la cassetta di latte, cioè diventa proprio un'economia sostenibile. Tutti questi fondi possono andare anche a vantaggio della raccolta differenziata, che c'erano un po' problemi sollevati da tutti. Ne parlavo prima di più. Io ho fatto in generale, perché avendo più locali puoi aumentare la spesa, ripartirla fra questi locali, perché per dare proprio per vedere una cosa del genere, e tu allora riesci ad arrivare anche a un aumento del non pro capite del cittadino, ma della torta da dividere fra tutti, perché se no è una torta. Quindi riesci a combinare le sfide, fare delle cose che secondo me sono importanti per altri. Altro, se non si fa qualcosa, io l'ho vissuto, mi capisco se non si parte, bravo di Dio, perché per me, lo dico, non ho mai negato un esempio come mio zio di sindaco, ne ho visti pochi in tutta la valle, io ne parlo con la musica, c'è sindaco. E con poca umiltà, come sempre, dico quello che penso. È difficile mutarlo per tutti voi. Non lo dico con poca umiltà, proprio per me. Però ha lasciato un'eredità importante da mantenere e da salvaguardare da avanti. Ricordatelo, perché se c'è tante case nuove, gente che ha investito, perché altro vive, non perché altro si è conservato, altro deve vivere. Io lo registro poco, ormai veramente poco. Ci sono andato con cresciuto, prima abbiamo combinato di tutte qua. Vivevamo con le moto senza casa, un ambiente franco bellissimo, e poi la mente vedo lì perché guarda là. Conservate chi ha visto il futuro, ascoltate il nome del paese giù, queste cose non ce l'hanno, ascoltate. Grazie. Altro? Allora io proseguo, la sede. Adesso c'è sede. Se non c'è grazie altro, di essere. Grazie. Guardatevi!